Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Per festeggiare, cominciò a spruzzarmi acqua negli occhi con il suo anello fatato. Incoraggiato da questo gesto per me dolcissimo, continuai ad adorarla per il resto del pomeriggio e a servirle ettolitri di aranciata. Ero pazzo di lei. Mi chiamo Antonio Stornaiolo, sono nato a Napoli ma vivo a Bari, quindi sono equamente diviso tra il Tirreno e l'Adriatico. Ho più di 50 anni. Sono beatamente sposato e ho due bambine, Paola e Maria Chiara. Mi occupo di comunicazione. E c'è un piccolo passo indietro che voglio fare prima di raccontare la storia di Antonio e la storia di questo corteggiamento leggero che mise in atto quando era un bambino e che racconta magnificamente nel suo racconto. Ed è la storia, un passo indietro in un'altra storia di una settimana fa più o meno. Ve lo ricordate il racconto di Eros? Eros era il ragazzo che faceva un incidente in moto insieme alla sua fidanzata, gli veniva amputata una parte della gamba e poi dopo due anni diventava un olimpionico, andava alle Olimpiadi di Atene e poi di Pechino. Il giorno di quella puntata ci scrisse una persona che diceva di aver ascoltato il programma e sosteneva di essere non la persona che aveva soccorso lui, che era, ricorderete, l'alpino, che era il protagonista di quella storia, il ragazzo che dall'altra parte dell'autostrada lo raggiungeva, gli diceva stai tranquillo, non è successo niente, gli metteva una cintura alla gamba e gli impediva di dissanguarsi, in sostanza. La sua ragazza, di cui si sapeva poco in quel racconto perché lui era concentrato su quello che stava succedendo a lui, era stata semplicemente scaraventata 50 metri più avanti della motocicletta. Lei era stata soccorsa da una persona, anche se lei non stava male di fatto e non si era fatta nulla di che, o perlomeno così lui raccontava. La persona che l'ha soccorsa era sparita quando erano arrivati le ambulanze e i soccorritori. Ecco, quella persona aveva ascoltato il programma, ci ha scritto, ci ha chiesto di metterlo in contatto con Eros e adesso a distanza di 10 anni si sono risentiti e la sua fidanzata ha parlato con la persona che le era stata vicina quel giorno del luglio del 2001, mi pare che fosse. Questo per raccontare appunto quanto le storie di questo programma, che sì, sono un punto rosso su una mappa, in qualche modo e fortunatamente prima o poi tornano a rintrecciarsi. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Oggi per capire quanto sono distanti le storie che raccontiamo, passiamo dalla storia di Eros e di un incidente molto grave che in qualche modo gli cambia la vita, a una storia invece di una leggerezza e di un garbo sorprendenti. Quando l'abbiamo letta, sia io che Tiziano e poi tutti gli altri, anche Margherita, quando l'abbiamo riletta oggi prima della puntata, la sensazione è proprio quella di bersi un bicchiere d'acqua fresca che ti dà una bella sensazione e poi però dopo che te lo sei bevuto non ti è rimasto in mano niente, ed è secondo me una sensazione fantastica perché appunto non ha alcun tipo di peso e non lascia residui, no? Non lascia tracce dopo che l'hai letta, e probabilmente è così perché è una storia di bambini, è una storia di infanzia ed è una storia d'amore, più che d'amore, di corteggiamento. Come può corteggiare un bambino di quanti anni aveva? Faceva l'asilo, quindi 4 anni, 5 anni. Ecco perché questo aspetto del corteggiamento, che poi in realtà in età avanzata acquista un peso diverso da quello che si ha quando si fa l'asilo e quando poi, come vi racconterò più tardi, si fa ad esempio il liceo, è in realtà appunto un aspetto preponderante della nostra vita, quello che arriva prima dell'amore, no? Cioè quello per cui fai di tutto per ottenere l'attenzione di quell'uomo o di quella donna. Ecco, visto che parliamo di questo tipo di corteggiamento, quello di Antonio, che è leggerissimo, vorrei parlare invece del vostro corteggiamento e del corteggiamento più pressante e diciamo più combattivo che avete messo in atto nella vostra vita. 349-238-6666, esattamente come la storia di Isa, che scrive: solo il mio è durato 5 anni, poi ho mollato perché rischiavo di diventare una stalker. Tecnicamente, secondo me, Isa, già all'interno dei 5 anni il rischio è altissimo. Monica: quello più serrato è quello che ho fatto a quello che è diventato ed è tuttora mio marito. Poco originale, ma è così. Beh, più che poco originale, direi che insomma le energie erano ben mirate. Alberto: il mio si è concluso con una epic fail. E vabbè, vale tutto. Francesco: corteggiamento cominciato nell'agosto dell'89, è andato a buon fine gennaio del 2012. Aspetta un attimo. Corteggiamento cominciato nell'estate dell'89, quindi 23 anni fa.

Sì. Senti Paola, io ti ringrazio tanto. Non ripassarmi papà, perché adesso devo mandare la borsa. Okay. Però tu fai così, fatti aiutare da papà. Scrivimi un racconto. Ma no, anche no, non farti aiutare da papà. Scrivimi un racconto di una pagina su questa storia e ci facciamo un'altra puntata. Ok, va d'accordo? Bene. Grazie mille, ciao, okay, saluta grazie, papà. Arrivederci. Ciao va Paola. Bene. Mi ha detto arrivederci. Grandissima, grandissima. Adesso la borsa e poi voi siete qui. Arrivederci. Voi siete qui. Antonio Stornaiolo, per l'esattezza, è l'autore del racconto che abbiamo appena letto. E dalla foto si capiva che c'era un non so che di artistico nella sua vita. Ha addosso una camicia, innanzitutto è una foto professionale. Ha addosso una camicia, è bello pettinato e fa il gioco dell'impiccato, quello in cui si prende la cravatta e finge di essere impiccato. E Antonio, dicevamo prima, è arrivato un messaggio che diceva esattamente così: per completezza, Antonio Stornaiolo è il mitico ex partner di Emilio Solfrizzi del duo comico barese Toti e Tata. Giochiamo che è meglio. Allora la lettera C oggi, mi raccomando, dimmi un nome con la C. Sì. Ciccio. Insomma, abbiamo cercato un po' di roba al volo, proprio perché non ce ne eravamo accorti, e abbiamo trovato un sacco di roba di Toti e Tata, e devo dire, ho apprezzato anche il fatto che Antonio non abbia voluto andare oltre e raccontare della sua professione. Evidentemente così, questo è un programma ascoltato dai comici che ci chiamano e non si fanno riconoscere e in qualche modo poi ci raccontano della loro vita. 349-238-6666. Corteggiamenti. Ho conosciuto a 14 anni una ragazza, Alessandra. Ancora oggi, dopo 36 anni, non c'è giorno nel quale non mi venga in mente. Francesco da Padova. In crociera 5 anni fa, quando si andava in crociera, la violinista del trio musicale della crociera. Continui sguardi e lunghi pomeriggi a far finta di interessarmi alla musica. Prima della fine della crociera riesco a baciarla in ascensore. Ora, il 28 di marzo, ci sposiamo. Sasha. Sasha, scritto proprio S-C-I-A. Vabbè. Conquistata da sguardi intensi e sensuali nella sala pranzo. Io vorrei veramente sapere come sono gli sguardi intensi e sensuali. Nel senso che, guarda, posso ancora immaginare che uno dica che qualcuno gli lanciava sguardi intensi e sensuali. Ma Giorgio, tu che dici che lanciavi sguardi intensi e sensuali nella sala pranzo dell'hotel? Proprio vorrei che tu mi mandassi una maledetta foto per vedere. Poi sì, infatti, per 15 giorni. È faticoso lanciare sguardi intensi e sensuali per 15 giorni nella sala da pranzo dell'hotel, che non è proprio il posto, diciamo, più intenso e sensuale che uno possa immaginarsi. Vabbè, comunque, per 15 giorni lui le lancia sguardi intensi e sensuali. Ci conosciamo l'ultima sera e età e distanza ci impediscono di iniziare una storia, ma la ricordo ancora. Tutto e niente, cioè 15 giorni di sguardi intensi e sensuali nella sala da pranzo dell'hotel. 349-238-6666. Anche Margherita è stata particolarmente colpita dalla storia di oggi, un po' perché il nome è vicino al suo, un po' perché lei ricordava, nonostante venga da una famiglia di comunisti, anche se in realtà nelle famiglie di comunisti non c'è spazio per il romanticismo, giusto? Noi di solito no, però in quella di Margherita un po' sì, e lei ha ricordato quando, con qualche sguardo non intenso e sensuale come quello di Giorgio, anche lei ha vissuto qualche piccolo amore. Ma il tutto per dire che le nostre menti, come al solito, sempre ristrette, con una scarsa fantasia, leggendo il racconto di Antonio, si sono fatte venire in mente quello che abbiamo studiato a scuola sotto il nome di amor cortese. C'è nella fattispecie un libro che io mi ricordavo di aver letto, poi mi è sovvenuto oggi quando me l'hanno ricordato, che si chiama esattamente, dov'è, l'ho perso, ah eccolo qua, Il Roman de la Rose. Il Roman de la Rose, di fatto, era una sorta di Federico Moccia del XIII secolo. Per due secoli, fino al XV secolo, orde di generazioni di innamorati lessero questo libro, scritto da due persone, che era una sorta di prontuario sull'amore e sull'innamoramento. E questo è uno dei pezzi più belli. Quando avrai donato il tuo cuore, così come ti ho detto, allora inizieranno le tue avventure, tristi e dolorose, come capita agli innamorati. Quando sarai da solo, ti sorprenderanno sospiri e pianti, brividi e dolori senza fine. I tuoi sensi saranno distrutti. Un po' avrai caldo, un po' avrai freddo, e sarai rossa in viso un momento e il momento dopo pallido. Nessuna febbre che tu abbia mai avuto, né quotidiana né quartana, sarà paragonabile a questa. Quando sarà notte avrai più di 1000 tormenti. Andrai a dormire nel tuo letto, ma ne ricaverai ben poca gioia, perché quando penserai di poter dormire, comincerai a fremere e trasalire, a girarti e rigirarti sulle costole, prima su di un lato, poi sull'altro, come chi ha mal di denti. Questo continua andare e venire, le notti insonni, i pensieri ininterrotti, ti faranno dimagrire e te ne accorgerai da solo. Conviene che tu dimagrisca, perché come sai, l'amore non lascia all'amante cortese, né colorito né peso. Have you ever started dancing in the middle of a shopping mall? Have you ever burst out laughing for no reason at all? Have you ever felt like you could float into the sky? Like the laws of physics simply don't apply. Have you ever been in? Eccolo qui, dal sussidiario, no? Dal libro di letteratura del liceo. Il Roman de la Rose è un lungo poema allegorico, opera di due autori diversi. Anche se è vero che l'amore è una malattia, dice, alcuni scrittori come il nostro non rinunciano a descriverne gli effetti con un certo compiacimento. Essere innamorati farà anche male, ma è uno stato a cui nessuno rinuncia volentieri. Riprendete in mano i sussidiari di quando eravate giovani e la vostra vita prenderà una piega diversa. La storia di oggi era la storia di Antonio e parlava di amori infantili. Quella di domani invece è la storia di Tania e parla delle cose che segnano un confine. Dall'aeroporto avevo preso il treno e poi avevo fatto qualche chilometro a piedi, di notte, in inverno, solo per schiarirmi le idee. Tutta questa concentrazione mi è bastata solo per guardarla negli occhi e dirle: è da un anno che mi vedo con Michela e non posso vivere senza di lei.